Ci sono domande? Ne faccio una io, un po'. Beh, innanzitutto, appunto, sembrava quando in giro, no, per il Leo dicevo, c'è un contest di farine da polenta, no? Era un po' sottovalutata questa cosa qua, ma mi sembra che con questi tre racconti si capisce, appunto, dietro un sacchetto di farina che cosa ci sta dietro. Un po', Gabriele l'ha centrato. Due cose volevo dire. No, una. Diabrotica. Cioè, riusciamo a spiegare, non so quanti di voi sanno cos'è la diabrotica. È un animaletto piccolino che fa un po' disperare chi coltiva mais. Non si capisce se è un ennesimo allarme più o meno inventato o dietro questa cosa qua. Ci sta, però è un'altra storia interessante secondo me da raccontare. Non so chi lo vuole.